alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarre. Ottava puntata. La pietà e l'ira. A Cecilia che conosce la vera pietà. In questi ultimi anni, via via che mi invade lo stupore di scoprire che anch'io invecchio, continuo a sognare, quasi a compenso, sogni bellissimi, colorati, non interrotti, come se invece di sognare io scrivessi. E scrivessi in quelle rare occasioni in cui una pagina mi accontenta subito. Mi sveglio poi soddisfatta, ma forse più che soddisfatta, la parola potrebbe suggerire una contentezza che invece non provo, mi sveglio placata, poiché questi sogni che spaziano dentro di me, anche quando da sveglia li ricordo in modo assai più preciso di molti avvenimenti reali, hanno il segno del compiuto, diciamo addirittura dell'irrimediabile, detto non con rammarico però, piuttosto come si direbbe, è così, non può essere altrimenti. Il cerchio si chiude e dentro questo cerchio sta ferma la tua vita in tutti i suoi colori, ma non uno di più. Ho sognato per esempio di percorrere le vie di una città tutta gotica insieme ad amici senza nome. L'architrave dei portali era scolpita come se fosse stata di legno, e così lo erano le cornici delle finestre e persino i bordi dei marciapiedi. Dei colori delle sculture ricordo soprattutto un rosso carminio, che nel sogno mi piaceva moltissimo. Un'altra volta invece entravo nel cortile, intravisto realmente, in un periodo in cui cercavo per i quartieri di Torino il cortile adatto per un film progettato su un mio libro. Il cortile era pieno di fiori bianchi, dai petali trasparenti, ma dalla pannocchia colma e spessa, e qualcuno mi diceva che potevo coglierli. Mentre li raccoglievo in un grandissimo mazzo, udivo i rumori delle macchine che passavano al di là dei muri decrepiti su tre lati, sul quarto c'era un palmizio, e udivo pure molti parlare dentro le case screpolate. Sia il rumore delle macchine, forse dietro il palmizio c'era un'autostrada, che le voci della gente erano allegri. Inoltre, questa era la predominante sensazione del sogno, i fiori erano selvatici e ne potevo cogliere in abbondanza quanti ne avessi voluti, per uscire poi liberamente dal cortile. Ho sognato così più volte di essere ritornata a Torre Pellice, nella casa dei miei nonni valdesi, dove sono vissuta dai 10 ai 20 anni, affidata alla mia nonna materna dopo il divorzio dei miei genitori. Il sogno mi conduce continuamente dalla casa al prato e dal prato alla casa. Questa è sempre aperta, inondata di sole e vuota di mobili, sia nella sala da pranzo a pian terreno, sia nella stanza al primo piano dove stava mia madre nei soggiorni con noi. Io sono io adesso e allora. Qualche volta so che ho un figlio, o tutti i figli, o persino il mio nipotino con me, ma non li vedo nel sogno. Vado dalla casa al prato attraverso il giardino che neppure vedo. Nel prato succede sempre qualcosa. Una volta è pieno d'acqua, un'altra volta è coperto da un lato con una lunga pensilina di plastica verde che corre al di sopra delle viti piantate dal nonno, partendo dal muro di cinta in fondo sino al pollaio. Qualche volta mi accorgo che hanno sradicato gli alberi da frutta, però non mi dispiace perché so che fa parte di un lavoro che si sta svolgendo nel prato. Non c'è mai nulla al di sotto del muretto a destra, dove scendeva un sentiero diretto tra i prati verso il Pellice, e mai nulla neppure al di là del muro terminale. Talvolta, ritornando dal prato verso la casa, mi trovo nella cucina, che al contrario delle altre stanze è abbuiata dalle persiane accostate e piena di mobili, di pentole, di piatti, posti tutti intorno su tavoli e mensole. Anche di pietanze che vedo qua e là e che mangio e trovo buone, pur non sapendo che cosa siano. Così vado avanti e indietro e chiacchiero con la nonna. Quando so che è mia madre, essa ha il viso e le parole della nonna. E parlo della mia partenza per Torino. La nonna mi dice di fermarmi ancora qualche giorno, il tempo è bello, non ho salutato nessuno dei miei vecchi amici. Accenna a un'amica vicina nostra che non ho più rivisto da 20 anni. Mi vengono pure in mente i nomi di compagni di scuola dei quali non mi è mai importato molto e ai quali non ho più pensato. Ma sì, mi dico, mi fermo ancora. E qui sento una sicurezza straordinaria. Ma sì, mi fermo a casa mia. E mangio le buone pietanze, senza forma e senza sapore. Il sole entra dalla porta e dalle finestre aperte. È il sole di settembre, è caldo e color dell'oro. Andrò nel prato e poi ritornerò verso la casa. Ecco dunque, costruito dal mio sogno, un passato che non è stato. E un incontro con la nonna e con mia madre che non è stato neppure. Parole non dette, o meglio, non dette in quella serena luce dorata, in una casa aperta un po' sciatta. Una volta ho pure sognato lunghe tende sfilacciate d'un tessuto a righe come quello degli ombrelloni, sempre attraversate dai raggi del sole davanti alle finestre della sala da pranzo, molto più grandi del vero. Questi sogni colorati, che dalla maturità mi stanno accompagnando verso la vecchiaia, hanno, mi pare, un significato comune, anche se le immagini che li compongono provengono da matrici diverse. Quale che sia però il loro materiale psicologico e immaginoso, limata come sono da fiumane di rimuginazioni e riconoscimenti, saprei ricostruirlo quasi pezzo a pezzo, essi fingono tutti che io abbia risolto e accettato, che non tema più nessun incontro, che sappia guardare incontro alla fine godendo tutti i colori della vita. Oppure sono un avvertimento di qualcosa che potrebbe essere, ma potrebbe anche essere già stato, un messaggio angelico che abbia scelto la via del sogno per giungere sino a me, poiché il sogno non ha spazio e non ha tempo, ed è sicuramente nel sogno che sta fisso con l'indice alzato l'arcangelo Gabriele. Non è detto che si avveri ciò che egli indica con l'indice alzato, o almeno che si avveri nella vita di chi riceve il messaggio. Questi miei sogni sono infatti esenti dalla ripetitività del destino, quasi invitano a smemorare gli accadimenti nella loro scolorita monotonia, a cancellarne i contorni, a sottrarli al tempo, cogliendone soltanto l'impercettibile mutamento fermo su se stesso come il vibrare delle ali di una libellula sull'iridescente riflesso dell'acqua. Tempo entrò nella mia vita quando giunsi con mia sorella a Torre Pellice. Mi diede per la prima volta un passato, uno spessore in cui immergermi, sfuggendo a indagini e assalti. La storia della mia infanzia era quanto mi rimaneva della mia esistenza precedente, poiché nel giro di poche settimane cambiai paese, lingua e ambiente familiare. L'alternarsi delle stagioni sembrava segnare la vita di casa, seguendo antiche consuetudini contadine che pure non stavano più direttamente alle spalle neppure della nonna, figlia ormai di agiati borghesi. Nel suo orto, però, continuavano a rinascere anno dopo anno le erbe che sua madre, ugonotta di Provenza, aveva portato dal suo orto vicino a Nimes fino all'orto valdese del marito e che da questo erano passate all'orto della nonna quando si era sposata, come da una casa all'altra erano passati i bei mobili provenzali, semplici, di noce chiaro, la cetosella che si mescolava agli spinaci, la borragine per frittate e frittelle, il cerfoglio, che oltre alle frittate serviva anche a condire le minestre di verdura. La nonna metteva pure una punta di acetosella nelle frittate. L'erba cipollina, il serpillo, l'erba dei piselli, che serviva esclusivamente a condire i piselli insieme col prezzemolo, nella breve stagione in cui li mangiavamo, cioè quando crescevano nel nostro orto. Tutte queste erbe avevano un nome francese e così l'aveva il rabarbaro che la nonna adoperava per preparare una delle sue varietà di tarte aux frites, o il crène che si grattugiava per farne un condimento per il bollito, e avevano nome francese gli utensili di casa, i mobili, i vestiti, i frutti del frutteto, l'uva che si riponeva a seccare sui tavolati in soffitta, l'amarognolo miele di castagno. Francese era pure il piccolo Nuovo Testamento dalla copertina nera lucida e dalle pagine sottilissime che mi comperarono non appena arrivata a Torre Pellice. Mi piaceva il libricino, bisognava voltarne le pagine con precauzione per non strapparle, e siccome amavo i libri carnalmente ne ricordo ancora l'odore. Con questo Nuovo Testamento andammo alla scuola domenicale e il primo francese non casalingo che pronunciai furono i versetti che dovevo imparare a memoria da una domenica all'altra. Tutto intorno alla casa ci sono montagne. La nonna mi racconta che quando avevo un anno e le sere d'estate non volevo dormire, mi portavano in braccio sul balcone a vederle e io, arrivata dall'immensa pianura, le indicavo stupefatta con il dito. In fondo, a destra della valle, il Granero, in mezzo il Palavas, in fondo a sinistra il Bussy, proprio di fronte alla nostra casa, al di là dei prati e del Pellice, la collina che sale verso Rorà. Poi, dietro la casa, ci si deve spostare sino all'estremità del balcone per vederlo, il Vandalino con il Castelluzzo. Le montagne non chiudono la valle, attraverso ogni colle, lungo i letti sassosi dei torrenti, corrono sentieri, si aprono passi per i quali si può fuggire verso altre montagne. I luoghi si nominavano spesso in famiglia e anch'essi portavano il tempo in grembo. Il burro, avvolto in grandi foglie verdi, e il seiras in fieno fresco come in una parrucchetta ci venivano portati dalla Sella Veia giù per la valle d'Angrogna che nonno aveva percorso bambino tutti i giorni, 5 chilometri all'andata e 5 al ritorno per venire a scuola. La domenica andavamo qualche volta in passeggiata fino alle rovine del forte costruito da Vittorio Amedeo II. Sotto c'era l'antico quartiere cattolico. I cattolici, anch'essi, erano luogo e tempo indifferentemente, senza soluzione di continuità. Erano un muro del quale non si parlava quasi mai, ma che si teneva presente. A poca distanza da casa nostra c'è il Collegio Valdese che mia sorella e io frequentiamo. Mi porto dietro un quaderno alla cui copertina interna ho incollato una fotografia di mia madre, il suo viso chiaro e severo, sulla giacca precisa, con attaccato all'occhiello il piccolo distintivo fascista. E la guardo di nascosto durante le lezioni. Sono ancora la più brava in matematica e dopo qualche mese scopro che i miei componimenti sono i migliori della classe. Fare i compiti di matematica mi dà sicurezza e tranquillità. Vado a farli con una compagna di scuola in una vecchissima casa alla periferia del paese verso il Villar. Da una parte il pendio che scendeva al cimitero era coperto di orti, dall'altra saliva l'antica strada curva dei Buissa. Stavamo nella piccola cucina riscaldata dal fornello, sul tavolo l'incerata, in ordine, i fogli, le matite appuntite, la gomma pulita, quel pomeriggio tutto riempito di cifre e di disegni era caldo e racchiuso in serenità. Ma fuori mi devo continuamente aggiustare. Qualcosa si è guastato nel mio tempo, che d'ora innanzi seguirà un cammino disordinato, come un vecchio orologio ora correrà a dismisura, ora si rimetterà in moto soltanto a scossoni. Devo trattenere la gamba che sta per piegarsi nell'inchino. La metamorfosi mi aveva sorpresa nel passaggio dall'inchino delle bambine a quello delle giovinette. Devo slegarmi la lingua, prima nel francese, poi nell'italiano. Devo abituarmi che pronuncino sbagliato il mio cognome. Combatto per mesi e correggo Gersoni, Gersoni. Poi mi rassegno. Un mattino sto seduta in quella che era allora la palestra del collegio, in cui c'era anche il teatrino della scuola. Ascolto il sermone del lunedì. Di solito andavamo in un'aula, ma quel giorno era forse un'occasione speciale. Seduta sulla panca, ascoltavo il pastore con l'attenzione di sempre, quando a un tratto i millenni si rovesciarono su di me e dietro le sue spalle vidi per un attimo tutti i popoli della terra nelle loro case e capanne, sui deserti e sui mari, nei secoli dei secoli, amen, e anche sulle rocce delle montagne delle quali noi valdesi eravamo stati tratti. E pensai, com'è possibile che Dio tra tutti i popoli della terra abbia privilegiato i cristiani? E mi risposi subito in una irresistibile illuminazione razionale: non è possibile. Se accosto l'aggettivo razionale al sostantivo illuminazione, lo faccio per ridurne la misura. Questi attimi, che ripetuti in altre occasioni si sono fissati in me per sempre, queste punture di spillo ben circoscritte nella loro piccolezza ma profonde, non erano suggerimenti miracolosi, non seguivano il cenno di indice alzato che mi piace immaginare nei miei sogni, ma esprimevano in poche parole codificate come una conversazione davanti al banco del mercato riflessioni ed emozioni, riflessioni su emozioni di lunghi tempi addietro e anche di lunghi tempi a venire, perché pur rimanendo essi ben fermi dentro di me nel loro minuscolo luccichio di capocchia, continuavo a rimuginare, diluire e trasformare quelle stesse emozioni, quegli stessi pensieri che li avevano suscitati. Persino le circostanze che li provocarono avrebbero potuto attuarsi prima o dopo, e solo in questo senso possono essere visti come illuminazioni. Avevo cominciato a studiare la storia alla scuola media. Avevo ottima memoria e, benché ancora timidissima, ero disinvolta quando esponevo il concatenarsi degli avvenimenti, delle cause e degli effetti e l'armonioso compenetrarsi del tempo e dello spazio. Della storia mi affascinava e rassicurava la sua limitatezza, il suo ormai già avvenuto, le parole già dette, la possibilità, insomma, di sapere tutto. Patrizia Zappa Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarre. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.